9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Zoo comunale, la tassa sulle macchinette per il peluche. Lei ne ignorava l'esistenza, io stesso. Sono 400 o 500 euro a seconda del comprovato uso stagionale. Sapete cos'è la macchinetta del peluche? Quella dei bambini al Luna Park. Tassa solo per quelle macchinette sul peluche, alla ricerca del pelo perduto. Questo è ciò che oramai è l'amministrazione tributaria. Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti, era che primavera. Vengo anch'io. La primavera del PDL, Alfano cambia per l'ennesima volta idea, pronti a cambiare nome e simbolo. Quante volte cambiano idea lui e Berlusconi? Una volta ogni settimana, ogni giorno, ogni ora? Di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Il mondo migliore è quello in cui Casini e Bersani cambiano idea ogni giorno sul premio premiolino. Adesso ci sarebbe il premio di consolazione per il premiolone troppo grande che nessuno prende. Dopodiché Quagliariello del PDL taglia la quadra, la testa a tutti. Dice: se li prende Grillo il premio, se il bonus va a lui, si torna al voto. Vedete, non si fanno mai leggi ad persona, persino sui premi elettorali. Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, nessun funerale in politica. Anche Violante dice: dopo le elezioni non ci possiamo privare di Monti. Monti inizia a telefonare oramai a tutte le manifestazioni politiche di coloro che lo sostengono. In altre parole, cari italiani, pensateci, perché il voto mi pare più che mai inutile, perché dall'estrema sinistra, o quasi, Violante, in effetti Violante sì, Vendola no, ma poi per il resto è un concerto di dire: Monti resta, Monti non se ne va, Monti stai con noi, ora pro nobis, eccetera, eccetera, eccetera. Bah. Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. No, di funerale basta. Adesso la leviamo questa sigla, perché i funerali portano male. Oggi è San Josafat. Auguri a chi ha questo nome che evoca la mitica valle in cui tutti ci troveremo. Ed è per parlare in realtà di una valle di lacrime, quella in cui stiamo da anni, in questa eurocrisi, che, come avete sentito dal lancio della trasmissione, oggi tentiamo di alzare un po' la testa da questo pulviscolare tormento della politica italiana che si avvicina alla redderazione. E ci poniamo invece un interrogativo di fondo su dove stiamo andando con la politica economica nel nostro paese, ma in realtà in tutta l'euroarea, e lo facciamo approfittando di un libro che si intitola La cura letale, il cui autore Mario Seminerio è qui con noi, è un mio amico, io lo stimo molto e secondo me fareste molto bene a spendere questi 12 euro della Burr, quindi Rizzoli, per questo libro La cura letale, che pone in non troppe pagine, sono 162 pagine, una serie concentrata di interrogativi su alcuni punti di fondo. Dove stiamo andando col nostro rigore che in realtà sta facendo salire il debito pubblico in Italia, che sta indebolendo tutti gli eurodeboli, ma in realtà sta anche oramai investendo la posizione della stessa Germania? Non è che per caso stiamo tutti commettendo un colossale errore, non rendendoci conto che questa crisi da eccesso di consumi pubblici o privati finanziati a debito, in realtà o troviamo un meccanismo per cui riequilibriamo le bilance dei pagamenti con un meccanismo cooperativo interno a livello europeo, il che significa che questa volta a dover fare più inflazione, per così dire, sono i tedeschi, come noi lo abbiamo fatto di più quando loro avevano l'eccesso di costi dell'unificazione. Se non facciamo così, ripeto, andiamo tutti a fondo, anche se continuiamo a ripetere che non stiamo andando a fondo, e in effetti il nostro debito pubblico, come si vede, continua a salire di 200 milioni di euro al giorno, malgrado tutte le stangate di anni e anni accumulate. Eccetera eccetera eccetera. Alcuni di questi interrogativi vengono affrontati e smontati dalle fondamenta, numeri alla mano, non con le opinioni ma con i numeri, da Mario Seminario, che io ringrazio per essere qui con noi e consentirci, insieme al suo libro che ha scritto. Mario Seminario non è che fa l'autore di libri nella professione, lui è uno che lavora tutti i giorni presso un istituto, quindi esamina i mercati tutti i giorni dando delle letture fondamentali su come poi l'istituto presso il quale lavoro deve indirizzare la sua rete e i suoi prodotti, e quindi aggiunge nel tempo libero, come facciamo molti di noi, con un suo blog quotidiano che richiamo alla vostra attenzione, che si chiama fastidio.net col ph, quindi se non ne siete dei lettori andatevelo a ricercare, perché troverete giorno dopo giorno delle sane pillole su cui spesso si bacchettano i giornali, l'informazione italiana e internazionale. Grazie a Mario per essere qui con noi oggi, buongiorno. Buongiorno, grazie a voi. Allora, voi che siete a casa, intanto preparatevi delle telefonate su questo punto di fondo. Che impressione avete voi? Stiamo sbagliando veramente il criterio di lettura di questa crisi? E intanto con Mario io ti propongo delle letture di brani sparsi del libro, per vedere un po' come riusciamo a sintetizzarlo poi. Dici a un certo punto, questo è avanti nel libro, dici: noi siamo un paese che ha una grande anomalia, la grande anomalia dell'Italia, un elevato stock di debito pubblico a cui si contrappone un'altrettanto rilevante ricchezza privata, mobiliare e immobiliare. In assenza di crescita, però, perché il libro è proprio su questo, noi stiamo perdendo di vista che senza crescita non andiamo da nessuna parte. In assenza di crescita, scrive Mario Seminario, gli investitori si sentono meno garantiti dal fatto che il paese possa restare solvibile, vendono i titoli del nostro debito, facendone aumentare il rendimento e di conseguenza la nostra spesa per gli interessi, e quello che avviene con lo spread. La risposta del governo Monti, scrive Seminario, è stata una: aumentare l'imposizione patrimoniale su immobili e attività finanziarie in modo tale da ottenere un gettito in grado di ammortizzare il calo del PIL, che si determina per quello che abbiamo detto. Ma una simile strategia tende a erodere il reddito da capitale e, oltre a certi limiti, potrebbe indurre alla liquidazione di immobili e attività finanziarie. Insomma, la corda rischia di spezzarsi, a maggior ragione in una realtà dove la persistente assenza di crescita appare una condizione ormai radicata, destinata a gravare sulle nostre spalle per molti anni a venire. Parole tue. Mi pare un giudizio un po' diverso da tutti quelli che inneggiano a Monti, Monti, Monti, o no? Premesso che io non sono avverso a Mario Monti, anzi direi che lo considero in questo momento o il migliore dei premier o il minore dei mali, più probabilmente. Su questo concordiamo. Esatto. Rispetto a Berlusconi e Tremonti, vabbè. Ma credo anche rispetto a molte altre candidature implicite o esplicite che offre, diciamo, il cortile di casa nostra. Penso che ci fossero poche alternative se non Mario Draghi, che però, come noto, era in tutt'altre faccende affaccendato. La mia chiave di lettura è: noi siamo dentro una situazione di vincoli sovranazionali fortissimi, quindi la prima cosa che ognuno di noi deve mettersi in testa quando esamina la situazione è che noi non siamo un'isola, il paese non esce da solo, non esce dalla crisi da solo e neppure esce dall'euro da solo, perché non è possibile ipotizzare una fuoriuscita dall'euro in queste condizioni se non una dissoluzione ordinata dell'euro, che venga attuata dalle autorità europee con l'assistenza della Banca Centrale Europea. Tutte le altre chiavi di lettura, fuoriuscita del paese, ritorno di una valuta, eccetera, eccetera, sono delle fole. Allora, Monti ha in condizioni di assoluta emergenza fatto un'azione di spremuta fiscale, giustificandola tra virgolette in maniera ideologica, dicendo l'imposizione patrimoniale in questo paese è bassa. Questo lo diceva a novembre dello scorso anno, appena entrato in carica. È vero, probabilmente, è altresì vero però che abbiamo già una pressione fiscale feroce e, come disse anche Mario Draghi, in emergenza ci sono due grandi vittime sacrificali per tentare di rimettere a posto i conti in maniera del tutto illusoria. Una è azzerare la spesa per investimenti pubblici, e l'abbiamo fatto così come l'aveva fatto Romano Prodi, così come l'avevano fatto Tremonti e Berlusconi, così come l'ha fatto Monti, per cui questo ce lo siamo tolto di mezzo. Il secondo elemento per risanare, tra molte virgolette, anche se mi viene da ridere a parlare di risanamento in questo contesto, è alzare la pressione fiscale. Perché tutti dicono bisogna tagliare la spesa. Io personalmente sarei anche d'accordo, visto che io non sono un sostenitore della spesa pubblica, a differenza di quanto alcuni simpatici personaggi tentano reiteratamente di attribuirmi da mesi, ma io non sono un sostenitore della spesa pubblica. Credo che questo paese abbia necessità di una riqualificazione drammatica della spesa pubblica. Però, se ci guardiamo nel contesto in cui siamo, dove andiamo a colpire? Le pensioni, ma è stato fatto, perché è stata fatta la riforma delle pensioni più severa e pesante d'Europa, tra l'altro con un errore marchiano come quello sugli esodati, che continua a riaprirsi ogni giorno. Io dico, se fossimo in un paese con un minimo di senso della responsabilità individuale, chi ha deliberato una riforma delle pensioni dimenticandosi degli esodati dovrebbe accomodarsi alla porta. Non facciamo nomi perché tanto sappiamo di chi si tratta. Quindi qual è il problema? Tagliamo la sanità. Io vorrei far presente che in Italia si spende, dati OCSE, un totale del 9,3% di PIL sulla sanità. La Germania non è lontana, l'Olanda ha un folle 14%, non parliamo fuori da noi, ci sono gli Stati Uniti al 15% e continuano ad andare avanti su questo deterioramento di conti. Che cosa possiamo fare? Stipendi pubblici, pensioni, l'altra è la spesa per interessi, che non è comprimibile. Certo. Se io fossi uno dei tanti demagoghi che affollano lo scenario di questo paese, direi, ma forse lo dico lo stesso, cerchiamo di combattere la corruzione, che poi è come dirlo dell'evasione fiscale, no? Combattiamo l'evasione fiscale, pagare tutti per pagare meno. Non è vero, perché in questo paese ogni volta che c'è stato un recupero di massa imponibile abbiamo avuto non una riduzione della pressione fiscale compensativa, ma un aumento di spesa. Per cui mi pare che, senza voler essere catastrofico, il numero di vincoli a cui siamo sottoposti noi e a cui era sottoposto Mario Monti quando è andato al governo fosse talmente elevato, soprattutto in un contesto in cui c'è una stretta fiscale sincronizzata da parte di tutta l'eurozona e anche da parte di aree esterne all'eurozona. Perché il Regno Unito è in stretta fiscale, il Giappone in condizioni comatose, gli Stati Uniti sono in una posizione di stretta fiscale per quanto blanda, ma che è destinata a peggiorare. Quindi chi è che genera crescita? Pensare che ci si possa sollevare da terra da soli, sollevandosi per le stringhe, come alcuni pensano in questo quadro, parlando di Mario Monti e criticandolo, perché Monti è criticabilissimo, Monti non è il messia, ha fatto numerosi e rilevanti errori, resta il meno peggio in questo quadro, però dovremmo renderci conto che il sistema di vincoli al quale siamo assoggettati ci dà un numero di gradi di libertà che è prossimo a zero. Perché? Perché questo risanamento, questo controllo della spesa, questa ristrutturazione dalle fondamenta della pubblica amministrazione italiana andava fatta quando il paese cresceva, non adesso che siamo sotto le bombe. È questo che non ci si riesce a far entrare in testa. Allora, io naturalmente invece credo che si possa fare, si debba fare una severa ristrutturazione, credo che si debba vendere il patrimonio pubblico, credo che i soldi per comprare non ci sono qua, sono all'estero, ma non parliamo di quello che penso io. Andiamo a un punto, perché Mario Seminario ci dice, siamo in un quadro dove c'è una stretta coordinata, come vedete, quindi qui nessuno fa la parte tra i paesi avanzati di chi tira, in realtà. Sì, tirano quelli fuori, però. Allora, qui c'è una frase, qui, in sintesi, tocchiamo questo altro punto del coordinamento di questo mix di austerità e moralismo, come lo definisce a un certo punto un passaggio del tuo libro, e tu citi un articolo di Martin Wolf, è uno delle voci che quotidianamente sono i grandi influencer, insomma, dell'euro dibattito, che scrive sul Financial Times. È un articolo del 13 dicembre 2011 e Martin Wolf scrive: in breve, è estremamente difficile eliminare i deficit fiscali in paesi strutturalmente importatori di capitali senza prolungate recessioni o enormi miglioramenti della loro competitività esterna, insomma, delle due lune. Ma quest'ultima, cioè il miglioramento della competitività esterna, è relativa, quindi i necessari miglioramenti nelle performance esterne dei paesi deboli dell'Eurozona implicano un deterioramento in quelle dei paesi esportatori di capitali, oppure una performance esterna radicalmente migliora per l'Eurozona nel complesso. La prima cosa significa che la Germania diventi molto meno Germania. La seconda implica che l'Eurozona diventi invece una mega Germania. Chi può credere, si chiedeva Martin Wolf, chi può credere che l'uno o l'altro esito sia plausibile? Ha ragione Martin Wolf. Ma secondo me su questo punto sì, perché qui stiamo parlando di un discorso che resta comunque a somma zero, perché se io esporto qualcuno importa e viceversa. Se l'Eurozona deve diventare un'unica Germania, quindi in grado di sottrarre domanda e di esportare in tutto il mondo, servono anni, servono delle ristrutturazioni dei sistemi nazionali e delle loro specificità da far tremare le vene e i polsi, ma soprattutto non si può pensare di fare questo mentre siamo in una condizione di deflazione di debito e di una crisi finanziaria, perché abbiamo un regime di cambio fisso, no? L'euro non si può svalutare perché assieme, sommando i paesi dell'Eurozona, abbiamo un avanzo commerciale delle partite correnti, quindi non si può nemmeno chiedere ai nostri partner commerciali di dire scusate, mi fate svalutare l'euro del 20% che devo cercare di evitare il default di 5 paesi, perché ci riderebbero dietro, attuerebbero delle misure ritorsive. Quindi noi siamo in equilibrio come euroarea, ma gli squilibri rimangono interni per quanto si stanno riassorbendo. Allora, se ogni paese avesse la propria valuta, che cosa succederebbe? Che queste valute si deprezzerebbero e ci sarebbe un processo di riallocazione e di aggiustamento che non c'è. Per cui, qual è la soluzione, almeno la soluzione prevista e proposta dai tedeschi e dalla Commissione europea e dalla Banca Centrale europea? La svalutazione interna. La svalutazione interna vuol dire deflazione salariale, vuol dire che gli stipendi e le pensioni devono ridursi, non contro l'inflazione, ma in valore nominale. Qual è il problema? Che in un paese che ha un elevato debito pubblico e un debito privato moderato ma in aumento, il debito si autoalimenta, la deflazione fa esplodere tutti i rapporti di indebitamento, che è quello che stiamo vedendo. Per cui questo aumento di deficit e debito non è da imputare alla dissipatezza dei governi, almeno non tutto, almeno da quando è iniziata la crisi, ma è da imputare ad una banalissima formula aritmetica troppo a lungo sottovalutata dai politici, dagli opinion maker e dalla pubblicistica, che non capiscono che quando il costo del debito eccede la crescita del PIL nominale, il rapporto debito-PIL si autoalimenta anche se noi non siamo degli scialacquatori. E alla fine, se vogliamo continuare a tagliare, noi finiremo col tagliare non solo il tessuto adiposo, che è quasi finito, ma anche i muscoli, i tendini, e tra poco sezioneremo anche l'osso. Allora, se prendiamo il rapporto, appunto, le proporzioni tra il tasso a cui cresce l'interesse per remunerare il debito, e quindi ci dobbiamo incorporare lo spread, rispetto a quello a cui cresce il PIL nominale, diciamo ci sono due modalità. Una modalità è quella di dire tentiamo di trovare il modo per far ridurre questo costo nominale del debito, e l'altra è invece ovviamente quella di fare crescere il prodotto. C'è una conclusione di un capitolo, è un capitolo nel quale si passano in rassegna lo stato dell'arte rispetto alle diverse partite europee, per così dire, l'unione bancaria e così via eccetera, in cui Mario Seminario scrive così: ben venga maggiore unione, ma perché questa si possa definire tale è necessario considerare tutti gli squilibri, inclusi quelli delle partite correnti di cui stavi parlando prima. È necessario ritrovare la ragione. Allora, per un meccanismo che attualmente non c'è in nessuna bozza di quelle di cui ci si confronta in Europa. In Europa stiamo confrontandoci sulle resistenze tedesche sull'unione bancaria, perché hanno il problema della Landesbank. Ci sono degli impegni, diciamo così, su come il fiscal compact ristretto porterà poi a un livello sovranazionale di controllo sui deficit pubblici e così via. Però in realtà di un meccanismo di coordinamento dei bilanci della parte corrente non ce n'è traccia, perché i tedeschi su questo continuano a puntare i piedi. E allora, siccome non ce n'è traccia, e tu dici senza di questo è come non ritrovare la ragione, perché continueremo gli eurodeboli ad avvitarsi, e adesso anche i tedeschi iniziano a rallentare molto i tassi dell'economia reale. Quale ipotetico premier italiano, a fronte della deposizione di debolezza che l'Europa che in Europa noi continuiamo a rappresentare. Certo, Monti ha una credibilità che Berlusconi si sognava, però sui fondamentali non è che i tedeschi ci considerino a posto. Allora, come si fa a immaginare che il blocco Spagna, Italia, Portogallo, un po' Irlanda, cioè dica ai tedeschi, con l'alleanza di chi riuscirebbe a dire ai tedeschi, guardate che o mettiamo mano a un meccanismo dove c'è il meccanismo di riequilibrio delle parti correnti, oppure qua andiamo a sbattere? C'è un attore che secondo me è l'attore chiave per determinare una sorta di blocco di questo tipo, ed è la Francia. Nel senso che la Francia si sta lentamente sbriciolando. La Francia è una specie di Italia che sta per collassare. Hanno una situazione di competitività che è drammaticamente erosa, hanno il 56% di spesa pubblica su PIL e non hanno alcuna intenzione di inciderla in maniera significativa, preferendo agire dalla leva fiscale, per cui stanno ripercorrendo tutto il percorso che ha fatto il nostro paese. Quando c'era Sarkozy, come del resto tutti i capi di Stato francesi, dal dopoguerra ad oggi, ritenevano di dover tenere la Germania imbrigliata, no? Quindi locomotiva tedesca e pennacchio francese. Il problema è che adesso la divaricazione è talmente drammatica che non si va più da nessuna parte. Allora io dico, quando la Francia perderà diciamo questo merito di credito che già non le appartiene, noi saremo di fronte all'ennesimo attacco speculativo all'Unione Europea. Quindi a quel punto o i francesi costringeranno i tedeschi a mettere in piedi un sistema che sia un po' più razionale, oppure veramente si rischia che si debba sedersi attorno a un tavolo e deliberare la dissoluzione dell'Unione Monetaria Europea e il ritorno alle valute nazionali, però su base coordinata. Senza, ripeto, io sto aspettando sulla riva del fiume che passi il cadavere francese, con tutto il rispetto per i francesi che comunque sono un popolo che a me piace, malgrado diciamo alcune caratteristiche peculiari, sto aspettando quello, perché senza un sistema di trasferimenti intracomunitari, che non sono sussidi, che non è una gigantesca cassa del mezzogiorno eccetera, semplicemente l'Unione Monetaria Europea non regge, e poi saremo costretti ad avere Mario Draghi che si trasforma per l'ennesima volta nel Deus Ex Machina, si inventa qualcosa. Ma questo è un ambiente fortemente... Si inventa qualcosa per regalarci altro tempo, o si inventa qualcosa per fare il commissario liquidatore? No, è la politica che lui compra tempo e lo fa in una maniera per la quale meriterebbe il Nobel per la pace, secondo me, no? Perché sta evitando che succedano delle catastrofi, conflitti sociali, esatto, che succedano delle insurrezioni armate della popolazione. Sa che la politica, il signor Tremonti dice che è il fascismo bianco, sta difendendo il fascismo bianco, se me ne lo dico, so, per ridere, lo faccio spesso. Questo è il livello delle nostre critiche politiche. Dobbiamo andare in pubblicità. Ferve il dibattito tra i nostri ascoltatori, alcuni dei quali dicono che Giannino sta mettendo la bandiera bianca, sta diventando krugmaniano, me l'aspettavo. Alcuni altri dicono invece che è tutto fiato sprecato, perché tanto ci vuole solo la rivoluzione. Guardate ragazzi, di qui non sentirete mai chiedere a voi di impugnare il fucile, quello fisico, quello civile, un altro paio di maniche. Dopodiché alcuni di voi dicono: fuori la Germania, ha ragione Berlusconi. Ancora ci avete sta cosa, fuori la Germania, vero? L'euro può esistere con la Germania che esce fuori, noi abbiamo risolto il problema. Vabbè ragazzi, io non so cosa dirvi. Passiamo con Mario Seminerio, autore di questo bel libro, snello, tagliente e contemporaneamente scritto sia per i lettori competenti di economia. C'è anche qualche equazione, cosa che a me non dispiace a dire la verità, ma contemporaneamente anche in maniera da farsi leggere e comprendere da tutti. Il titolo del libro è La cura letale, Rizzoli, Burr. Sotto il titolo, la spiega del libro dice tutto. Chi sta facendo fallire l'Italia e come l'Europa sta peggiorando le cose? Un economista non allineato, Mario, che è qui in studio, spiega perché di austerità si muore e come invece è ancora possibile salvare il paese. Però guarda che ti hanno fatto una presentazione in cui secondo me dovremmo mettere te alla testa del governo. No, beh, io non ho alcuna, diciamo, velleità di questo tipo, sono altri, diciamo. Quelli che ce l'hanno la velleità. Sì, beh. Pizzicata per me, per fortuna, no. Che ho sempre detto che non mi candido, ma ragazzi. Infatti, e quindi non è per te. Esatto. No, stiamo scherzando con un po' di ironia. Vediamo un pochino di ascoltatori che cosa ti chiedono. Allora, cominciamo con Gianmaria da Milano. Prego Gianmaria. Sì, buongiorno Giannino. Buongiorno. Allora, concordo in tutto quello che avete detto. Guardi, le do un'esperienza personale. Io sono un micro imprenditore, gestisco un piccolissimo residence a Milano e ho due dipendenti. L'anno scorso, prima della riforma fiscale Monti, ho detto, beh, visto che io faccio un po' di tutto, sto in ufficio, faccio lavoretti, riparo, aggiusto, mi occupo della pubblicità, di tutto, della ricetta, quasi quasi prendo un ragazzo, lo assumo, almeno mi sta in ufficio, fa la pubblicità e così. Monti ha presentato le imposte sugli immobili, l'immobile è nostro, della nostra famiglia, di proprietà e così, io non posso più assumere una persona. Ecco un caso molto semplice in cui, mi sente? Sì, stiamo ascoltando. In cui, diciamo, questa manovra sugli immobili è stata catastrofica, questo sta facendo fallire l'Italia. Per me Monti è uno psicopatico, io lo dico molto. Va bene, non credo che sia proprio molto d'accordo rispetto a quello che abbiamo detto, no, perché abbiamo detto che arriva in un sistema con molte costrizioni, per così dire. Comunque, Gianmaria, lo stato d'animo che esprime è quello prevalente, un po' di tempo a questa parte, ai nostri microfoni. Statisticamente nei sondaggi non è così, invece, quindi bisogna contemperare. Sentiamo Stefano da Palermo che pensa. Buongiorno. Allora, vorrei dire brevemente che non condividere l'analisi che l'ospite ha fatto stamattina è abbastanza difficile. E allora il primo sentimento che viene qual è? Quello dello scolamento. Ma che facciamo? Ma chi li convince i tedeschi a cambiare marcia, più o meno questo? Per esempio, e anche su tante altre cose. La verità, secondo me, vorrei sottoporre questo a voi, al vostro giudizio, è che probabilmente dobbiamo entrare nell'ordine delle idee che è necessario affrontare il problema abbastanza complesso e difficile, probabilmente molto nuovo rispetto all'esperienza economica del passato, attraverso piccoli passi, e cioè non esiste una ricetta miracolosa. Allora, si è fatto molto nel campo delle pensioni, si è fatto molto sul campo del reddito fisso. Adesso possiamo cominciare a pensare a un mix di misure che ciascuna per piccola parte contribuiscano a tirarci fuori dal problema. Per esempio, la patrimoniale sui grandi patrimoni, poi il aggredire il sistema burocratico statale e parastatale, perché lì ancora ci sono delle sacche di dissipazione della ricchezza che sono abbastanza interessanti, da cui si possono recuperare risorse. La modernizzazione del paese sotto il profilo tecnologico e informatico. Stefano, io la fermo, perché se altrimenti facciamo il libro di tutto quello che nei diversi settori serve e ha impatto, ovviamente, per far risalire un pochino l'output potenziale del paese. Il problema è che se l'impostazione diventa, abbiamo tentato di semplificarla prima, no? Si ricorda la frasetta che diceva se il tasso a cui noi paghiamo la crescita e l'interesse sul debito eccede il tasso del PIL nominale, ragazzi, non ce n'è per nessuno. Allora bisogna concentrarsi, per così dire, nel breve periodo, o nelle modalità attraverso le quali si fa una cosa, o meglio, si fanno tutte e due, però bisogna concentrarsi su quello e sulle cose che nell'unità di tempo producono il maggior effetto su entrambi questi fattori. Uno è il tasso a cui si remunera il debito e l'altro è il tasso nominale della crescita. Il tasso nominale, perché ci diciamo sempre nominale? Perché la componente nominale, per essere chiari, nel gioco delle partite correnti intraeuropee ha il suo peso, perché richiama questo fattore, quello delle inflazioni diverse all'interno di paesi che pure fanno parte tutti della medesima area monetaria, che aiuterebbe anch'esso, virgola, e come al riequilibrio, non so se è chiaro, perché è il modo attraverso il quale noi, per esempio, lo abbiamo già detto prima, contribuito cooperativamente al fatto che i tedeschi c'avevano un bel po' di roba da recuperare, così, no Mario? Sì, ma diciamo, un conto è avere una Spagna e un'Italia che hanno l'inflazione a zero e la Germania che ce l'ha al 4%, stiamo naturalmente sognando, certo. E un altro discorso è avere, per effetto della crisi, che adesso sta colpendo anche i tedeschi, avere la Germania con l'inflazione al 2%, perché questo vorrebbe dire che Italia e Spagna dovrebbero avere deflazione secca, esatto. A meno 2, meno 3, ma con la deflazione noi si muore, questo è il dato di fatto. Il problema è che i tedeschi dovrebbero, per così dire, mentre noi siamo costretti alla deflazione interna, perché questo è quello che stiamo facendo, dovrebbero invece deflazionare molto pagando di più i loro dipendenti. Sì, dovrebbero stimolare la domanda, ma queste sono interpretazioni classiche, so che molti le definiscono keynesiane, perché in questo paese keynesiano è il nuovo comunista di matrice berlusconiana, per cui credo che possiamo anche evitare le etichette. Il problema è che neppure questo è risolutivo, nel senso che non è solo questo tipo di squilibrio. Se i mercati si convincono, come erano assolutamente convinti prima del 26 luglio e del 6 agosto, cioè prima di Draghi, che l'Unione Europea va in schegge, i mercati ritirano il denaro dai paesi come il nostro, non sottoscrivono i nostri BTP in asta, se ne liberano a mani basse, il nostro costo del debito esplode, perché Draghi parla di rischio di convertibilità. Il rischio che l'euro sia reversibile, cioè che si possa tornare a valute nazionali. Noi abbiamo 600 miliardi di euro in mano a non residenti. Fin tanto che questi restano in mano a non residenti, noi abbiamo un mitra puntato davanti ai nostri occhi. Tuttavia, se tornassero in mano nostra, che cosa succederebbe? Che è il tentativo che è in corso in realtà, con un po' di repressione fiscale, il tentativo, sì. Cioè abbassare il totale dello stock in mano di intermediari stranieri, obbligando le banche italiane a comprarlo, ha abbassato di molti punti la parte. Beh, ma siamo ancora un 30%. Siamo ancora un 30%, era 46, come sai, sì, non troppi però, mesi fa. Certo, però per fare 16 punti abbiamo morti e feriti, prova a fare gli altri 30 bravo, e vedi cosa succede. Ma io infatti sono contrario alla strategia giapponese, per così dire, di repressione sì, fiscale. Sì, ma la loro è una strategia che ha anche delle basi demografiche che non a caso adesso stanno andando in pezzi. Io vorrei indicare agli ascoltatori un altro elemento. Ipotizziamo per assurdo che gli italiani si ricomprino tutto lo stock di debito. Il debito è emesso secondo la legge italiana. Una volta che è al 100% in mano a residenti, secondo te, secondo voi, che cosa succede se abbiamo l'acqua alla gola? Che gli si fa un bel taglio al valore nominale. Quindi si fa un default ad uso domestico. Esatto. E le banche un minuto dopo saltano. E vanno nazionalizzate, perché queste cose occorre dirle. Mi piace molto che tu fai il passo esplicito nel dire alla gente: guardate che questo può essere il passo che c'è dietro l'angolo, perché così sono completamente d'accordo. Altrimenti la gente continua a restare. Non è che tutti debbano essere esperti di qualcosa, gli esperti non esistono. Il problema è che con i sogni non si va da nessuna parte. Esatto. Attenzione, perché abbiamo un sistema bancario in sofferenza. Non quanto quello greco che è morto, non quanto quello portoghese che è moribondo, non quanto quello spagnolo che è in avanzato stato di coma, però, una parte della nostra crisi è da imputare a un credit crunch di natura bancaria che deriva da un'enorme sofferenza e da crediti in sofferenza che stanno andando fuori controllo. Per cui la bacchetta magica e la pentola di dobloni d'oro in fondo all'arcobaleno la trovate solo nelle fiabe. Nelle fiabe. Sentiamo ancora una telefonata rapida. Sandra dalla provincia di Torino. Sandra, prego. Buongiorno. Sono Sandra e volevo dire quello che penso di Monti. Sì. Monti, secondo me, è un Robin Hood all'incontrario, prende ai poveri per dare ai ricchi. Adesso gli insegnanti hanno ottenuto quello che chiedevano e i nostri ragazzi quando otterranno quello che chiedono? Io conosco degli amici dei miei figli che suonano, c'è la FIAI che non li fa suonare in giro perché è una casta anche quella. I presidi non possono prendere i migliori professori perché ci sono dei professori che hanno un punteggio in più. E allora Sandra, alt, perché non mischiamo però cose diverse. La SIAE io sono d'accordo, e si figuri, sulla tutela del diritto d'autore italiano ci sarebbe molto da discutere. Secondo, l'ordinamento complessivo della scuola, per il quale l'autonomia non consente la diversificazione degli incarichi, ci sono graduatorie nazionali, con le responsabilità di Monti non c'entra perché è una cosa che viene da lontano. Terzo, invece, la prima cosa, ecco, che la ragioneria generale debba decidere lei l'aumento di 6 ore di insegnamento frontale nella scuola media e superiori, perdoni, ma su questo è meglio evitarlo perché è una stupidaggine, quindi su quello non sono d'accordo con lei. Non è che i professori hanno ottenuto, era una stupidaggine scupedale fatta unicamente per ricercare risorse per preservare i saldi, perché serviva unicamente a diminuire il totale della spesa delle supplenze, cosa buona, fatte dai precari ovviamente, però a quel punto dicendo voi andate lì e fate 6 ore in più gratis, non funziona così, come ovvio, signora. Allora, nella parte conclusiva di questo libro di Mario Seminiero, ripeto, La cura letale, chi sta facendo fallire l'Italia e come l'Europa sta peggiorando le cose, c'è una chiusa un po' malinconica, non di quelle ovviamente iper ottimiste, perché scrive Mario che stiamo andando in una condizione nella quale c'è poco, per così dire, da essere ottimisti, perché stiamo diventando un paese nel cui praticamente, per esempio, i giovani tra laureati e non laureati, non è che c'è più differenza nella formazione del loro capitale umano. È così, noi abbiamo spaccato in due un mondo nel quale chi viene dopo non ha né le tutele né il reddito disponibile né la parte da volgere ai consumi che avevano chi c'era prima. Dopodiché, scrive Mario, quale esito politico possa prodursi da questo suo movimento? Non è dato saperlo, ma possiamo già constatare la crescente diffusione di forme di populismo protezionistico e statalizzante. Insomma, il rischio di involuzioni che ci portano un po' più vicini all'Argentina, un po' più lontani dalla Germania, non deve essere sottovalutato. Si tratterà di una traversata nel deserto. Sì, perché il reddito pro capite sta calando. E questo si innesta su un paese che sta invecchiando, per cui questo moltiplica i problemi. Come dicevi e come c'è scritto nel libro, l'investimento in capitale umano è diventato talmente penalizzante che la gente smetterà di investire su se stessa, e chi lo farà unicamente con la finalità di emigrare, come già sta succedendo ai giovani spagnoli in maniera massiva. Per cui è chiaro che se questa situazione non giunge al termine, l'Italia sarà un paese vecchio, completamente sclerotizzato anche come vivacità e come fermento culturale. Sarà probabilmente un paese di talk show politici dove si discute del premio al 10% o dove si discute del nuovo logo del PDL o dove si discute della rottamazione di Rosi Bindi, no? E nel frattempo noi avremo mandato al macello un intero paese, e questo è il problema. Per cui la conclusione è negativa, è malinconica, eccetera. Io la definirei realistica. Realistica, bravo. Realistica, realistica. Ovviamente ci deve essere una soluzione. Qual è la soluzione? Ma è la patrimoniale la soluzione, come dicono molti. No, no. Anche ieri mi veniva da ridere perché ho letto un articolo dove veniva creato un pantheon, no? Tra Obama e Hollande. Obama, cioè, si leggeva qualcosa del tipo patrimoniale sui redditi in questo paese di analfabeti economici. La patrimoniale serve semplicemente ad aumentare la pressione. Esatto. Nei casi più rilevanti, quando applicata sul capitale in maniera pesante, fa fuggire i capitali, per cui ci si sta avvitando. Io purtroppo nel dibattito politico italiano, soprattutto a sinistra ma anche nella destra sociale, sembra che la patrimoniale sia la cosa che farà arrivare i treni in orario. Bravo. Le cose non stanno così, perché noi ci stiamo divorando lentamente tutto quello che abbiamo accumulato in generazioni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, chi più chi meno. Per cui queste soluzioni miracolose non esistono. Però io vorrei finire con una nota di relativo ottimismo. La Germania in alcun caso potrà permettersi che questa costruzione crolli. Noi arriveremo ad un sistema di trasferimenti intracomunitari che non si chiameranno trasferimenti ma avranno un altro nome, per non irritare gli elettori tedeschi. Così si dirà: questa non è una pipa, come diceva qualcuno. Ci arriveremo probabilmente già con le elezioni tedesche, che purtroppo a settembre 2013, che secondo me vedranno una grande coalizione che dovrà prendere finalmente, avere finalmente gli attributi di guidare questo continente fuori dall'incubo in cui è stato trascinato da una concezione moralistica e ragionieristica delle finanze pubbliche, senza nulla togliere, ripeto, alla dissipatezza e al fallimento epocale di una classe politica come quella italiana che andrebbe privata dei diritti civili. Allora, io su questa bella conclusione, che come vedete c'ha del realismo nel dire è nell'interesse dei tedeschi alla fine prendere atto che bisogna cambiare marcia sui meccanismi cooperativi all'interno dell'euroarea. Quando noi diciamo, con un termine che forse molti non capiscono, bilanciare il bilancio dei pagamenti, il flusso interno, questa è la faccenda, capito? Allora servono trasferimenti, perché serve nel medio lungo premiare e incentivare gli sforzi terrificanti nel breve degli eurodeboli, altrimenti gli sforzi nel breve degli eurodeboli portano a fondo, e anche i tedeschi vanno a fondo. Però l'Italia in questo non è che può dire che la colpa è degli altri, capite? E per questo sulla sospensione, o meglio sul fatto di levarglieli i diritti civili ai politici responsabili di questa disposizione, Mario Seminerio, io e Mario Seminerio siamo d'accordo, e per il resto non dateci dei portasfighe, perché il linguaggio amaro della realtà è l'unico linguaggio per affrontarla. A domani, e grazie a Mario Seminerio.